se vale de papá. E di papà che sa fare solo quack quack quack quack quack quack quack. Mamma papà e papà con le mani quack quack quack. E una prima bomba da quack quack quack quack quack. Questo è ballo quack quack. Questo è ballo quack quack quack. Questo è ballo quack quack quack. Quack quack quack quack quack quack quack. Questo è ballo quack quack quack. Quack quack quack quack quack quack. Questo è ballo quack quack quack. Quack quack quack quack quack quack. Questo è lo Zoo di 105.